da un punto di vista processuale, io so che per 4 anni Ocalan non ha avuto la possibilità di incontrare i suoi avvocati, quindi volevo sapere se adesso gli incontri sono rientrati nella normalità, uno, e poi da un punto di vista processuale qual è il prossimo passaggio? Yani biz avukatlar olarak 27 Temmuz 2011'den beri görüşemiyoruz. Yani aslında 5 yıl artık, 4 yılı aştı. 4 yılı aştı. Noi come avvocati è dal 27 luglio del 2011 che non riusciamo a incontrare Ocalan, quindi sono passati più di 4 anni, sono quasi 5 anni. Ve maalesef ki tüm girişimlerimiz ve çabalarımız sonuçsuz kalıyor. E tutti i nostri sforzi non ottengono un risultato purtroppo. Son olarak muhtemelen hani sizler de yakından takip etmişsiniz. Türkiye'de İmralı HDP üzerinden yürütülen bir barış süreci vardı. Avrete seguito il fatto che c'era un processo di pace e degli incontri fra rappresentanti dell'HDP e il presidente Ocalan. Ve bu görüşmeler sonucunda sekreteri olarak İmralı Adası'na götürülen 5 yeni PKK'li vardı. PKK'li mahkum. Bu görüşmelerden sonra. Görüşmelerden sonra. Dopo questi incontri, quindi sono stati portati dei prigionieri del PKK nel carcere di İmralı, questi 5 prigionieri di cui prima parlavo. Ama maalesef ki bu sekreteriyadan 2 kişi hiçbir gerekçe gösterilmeden başka bir rezervine sürgün edildiler 2 ay önce. Ma due mesi fa questo gruppo è stato mandato in un altro carcere senza motivo e senza alcun tipo di spiegazione. Bu aslında biraz şu anlama geliyordu. Sekreterya bu barış sürecinden geriye kalan önemli bir işaretti ya da bir barış umuduydu. Ama son kalıntılar ve son işaret de dağıtılmış oldu böylece. Lei chiama questo gruppo segreteria di appunto questi compagni del PKK e dice questo è un punto, è una sottolineatura del fatto che questo processo di pace sia finito, perché era diciamo una piccola speranza che potesse riprendersi il fatto che loro fossero ancora in quel carcere, invece il fatto che siano stati mandati in un altro carcere diciamo è molto negativo. Ve bu arkadaşlarımız geldikleri cezaevinde de hala İmralı'daki uygulamalarla karşı karşıyalar. Yani ağır tecrit altındalar hala. Nei carceri in cui sono stati trasferiti sono ancora in isolamento, cioè vengono trattati come venivano trattati nel carcere di İmralı. Ve İmralı Adası'nda tecrit her geçen gün ağırlaşarak devam ediyor. E ogni giorno questo isolamento nel carcere di İmralı continua. Aileler bir yıldan fazladır görüşemiyor. La famiglia di Ocalan non è permessa alla famiglia di incontrarlo da più di un anno. HDP'nin İmralı heyeti de 5 Nisan'dan beri görüşemiyor, 2015'ten beri. E dal 5 aprile del 2015 le delegazioni dell'HDP non sono più potute tornare a İmralı. Ve hani 5 Nisan'dan sonraya baktığımızda aslında tam da savaşın giderek gün be gün derinleştiği dönemler. E da questo 5 aprile del 2015 la guerra ha cominciato pian piano ad intensificarsi, a diventare sempre più profonda. Dolayısıyla biraz daha belki şöyle söyleyebilir, İmralı Adası'nda mutlak tecrit hali devam ediyor. E quindi possiamo dire che appunto questo stato di isolamento completo nel carcere di İmralı del presidente Ocalan continua. İmralı Adası'ndaki durumla Kürdistan'ın durumu aslında birbiriyle çok iç içe, çok paralel, ayrılmaz haldeler. E la situazione nel carcere dell'isola di İmralı e la situazione nel Kurdistan sono queste due situazioni sono parallele, sono intersecate e sono molto collegate. Sayın Ocalan hep şunu söylerdi aslında belki hani yaşanan durumu özetlemek açısından en iyi ifade edilen o. Benim şahsımda burada tutulan aslında özgür Kürt kimliğiydi. Il presidente Ocalan diceva sempre che nella sua persona quella che è stato rinchiuso nel carcere di İmralı è il curdo libero. L'identità del curdo libero. Yani bu savaşta özgürleşmeye çalışan Kürtlere karşı bir savaş. Questa è una guerra contro i curdi che cercano di liberarsi. Ama sanırım bir kesinlikle Kürt halkı özgürlük çizgisinden ve özgürlük arayışından taviz vermeyecektir. Ma penso che questi curdi che stanno lottando per la libertà non faranno nessun passo indietro in questa lotta. Volevo chiedere, ho sentito la rassegna stampa di Radio 3 la testimonianza di uno proveniente da una locazione vicino a Diyarbakir e parlava della situazione di Diyarbakir non solo in stato d'assedio, praticamente sotto i bombardamenti e yaşananlarla hemen hemen aynı. Diyarbakır'da Sur, Cizre, Silopi aslında birer Kobani'ye dönüştüler. Dice adesso la situazione di Diyarbakir, quella di Cizre, quella di Silopi sono simili, si sono trasformate in una nuova Kobane, cioè la situazione è appunto di una città in stato di guerra. Öz yönetimlerini ilan eden ve buna göre yaşamak isteyen Kürt halkına yönelik çok ciddi bir saldırı var. C'è un attacco molto serio, molto pesante nei confronti di tutte quelle città che hanno dichiarato l'autogoverno dopo le elezioni. Çok şöyle söyleyeyim, özel eğitilmiş askerler, havan topları, obüs topları dedikleri büyük, yani ben silah terimlerine çok hakim değilim, büyük savaş silahlarının kullanıldığı silahlar. Sono impiegati in questa guerra, in questo attacco, in particolare forze speciali, quindi dell'esercito e della polizia, proprio di livelli di forze speciali, colpi di mortaio, bombardamenti veri e propri e armi pesanti in generale. Sürekli bir bombardıman ve ateş altında tutuluyor Diyarbakır, Sur ve diğer yerler. Queste città, in particolare Diyarbakır, il quartiere di Sur e le altre città che ho nominato sono sotto bombardamento continuo. Ama bunlardan da öte orada yaşayan insanların günlük hayatlarını idame ettirecek yaşamsal faaliyetler de engelleniyor. E vengono anche ostacolate tutte le attività che possano far sì che chi si trova ancora in vita in queste città possa sopravvivere o che possa arrivargli qualunque tipo di aiuto. Yani şöyle düşünün, 70 gün evinizdesiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, ekmek alamıyorsunuz, yiyecek alamıyorsunuz, elektriğiniz kesik, suyunuz kesik. Pensate, per 70 giorni nel quartiere di Sur in particolare non puoi uscire di casa, non puoi comprare. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama Diyarbakır'da gidip geliyorum. Diyarbakır'da da kalıyorum, biliyorum. Dice, io vivo a Istanbul, ma faccio avanti e indietro fra Diyarbakır e Istanbul, anche, quindi faccio avanti e indietro. E dice, non puoi uscire di casa per 70 giorni, tagliano l'elettricità, non c'è acqua, non c'è cibo e non c'è possibilità di avvicinarsi appunto a questi quartieri. Şöyle düşünün, eğer hastaysanız bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa eczaneye çıkıp ilaç alamayacak durumdasınız. e sono nella situazione in cui se sono ammalati o vengono colpiti non possono andare né in ospedale né in farmacia né possono arrivare le ambulanze. Ki şöyle söyleyeyim, Cizre'de kalp krizi geçirdiği için yaşamını yitiren insanlar vardı. A Cizre ci sono delle persone che sono morte perché hanno avuto un attacco di cuore e non sono potute non le hanno potute curare perché appunto non sono potute arrivare ai soccorsi e quindi molti sono morti in questo modo. Ve Diyarbakır'da son olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 5 mahallede insanlar zorla evlerinden çıkartıldılar. E dopo la dichiarazione del coprifuoco in 5 quartieri a Diyarbakir, alcune persone sono state portate via fuori con la forza dalle loro case. Cizre zaten tümden boşaltılmış durumda. Cizre è completamente svuotata dagli abitanti. Silopi aynı şekilde. Anche Silopi è nella stessa situazione. Yani ondan da öte bombardımandan ve yıkımdan kaynaklı insanların yaşayabilecekleri mekanlar değil artık. E quindi non è più un luogo in cui le persone possono vivere in questo momento. Yani devlet tarafından adı konulmamış bile olsa aslında bir etnik temizlik ve etnik tehcir yani göç ettirme politikası yürütülüyor. E quindi una politica da parte dello Stato di pulizia etnica per diciamo spingere alla emigrazione forzata alla popolazione. Şöyle düşünün, hasta, yaralı insanlar var ve sağlık ekipleri şu an Diyarbakır sura giremiyor bu insanlara yardım etmek için. Ci sono persone malate o ferite e ci sono anche dei gruppi di medici o comunque persone della sanità che cercano di entrare nei quartieri sotto il coprifuoco e gli viene impedito. Cizre'ye giden yine sağlıkçı ekip engellendi ve hatta ambulans bazı evraklar eksik olduğu gerekçe gösterilerek el konuldu ambulansa. È stata usata la scusa di che mancassero dei documenti o dei permessi alle ambulanze che hanno provato in tutti i modi a raggiungere Cizre appunto nei giorni in cui c'erano le persone rinchiuse negli scantinati. Yaralılardan Cihan Karaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında yaralı olduğundan kaynaklı tedbir kararı verilmiş bir yaralıydı. La Corte di Strasburgo ha deciso che doveva essere diciamo, protetto un ferito a Cizre. Ama maalesef ki sokağa çıkma yasaklarından kaynaklı ambulansın gönderilmesine müsaade etmediler ve Cihan yaşamını yitirdi. E nonostante appunto fosse stata fatta appunto questa richiesta alla Corte di Strasburgo affinché potesse arrivare l'ambulanza, l'ambulanza sarà bloccata e quindi è morto. Yine 100 kişilik Cizre'deki Bodrum'da Orhan Tunç hakkında aynı karar vardı. Anche a proposito di Orhan Tunç, che era fra le più di 100 persone che sono morte negli scantinati a Cizre, era stata fatta questa richiesta, era stata fatta anche la decisione da parte della Corte di Strasburgo affinché venisse portato fuori o comunque curato, ma è morto. Ama maalesef ki Türkiye bu kararları dahi uygulamadı, bu insanlar yaşamını yitirdi. La Turchia non ha rispettato queste decisioni e quindi non sono stati salvati. Essendo lei un avvocato che è stato in carcere e quindi segnalato, o segnalata, per uscire come ha fatto? È uscita dalla Turchia, da Istanbul, in barcata? Sì, avvocato da Rakhine, a piste caldo in Cina, in Turchia, non c'è come zor, o il mondo, non è una fiatta. Yurt dışı yasağım yok. non c'è una decisione di diciamo non è vietato l'espatrio per lei perché comunque è yargılamam devam ediyor. C'è ancora un processo in corso, però non c'è una decisione di vieto di espatrio. Ama tabii bundan sonra ne olur bilemem. Non so cosa potrà succedere, per ora sono riuscita a venire. Si è parlato anche dell'uso di armi chimiche, specialmente per quei 60 scesi bruciati all'interno del sotterraneo, pare. Ci sono prove sul fatto che si siano usate armi chimiche? Şöyle söyleyeyim, sokağa çıkma yasağı devam ettiği için henüz bu uzun sokağa çıkma yasağından sonra biz avukatlar olarak oraya gidemedik. Ama ilk yaptığımız incelemelerde, yani daha önceki sokağa çıkma yasaklarında ağır silahlar ve kimi tanımlanamayan, yani halkın tanımlayamadığı şeyler kullanıldı. Kimyasallar da bunun içerisindeydi. Mesela bu Bodrum'daki insanlar benzin dökülerek ve kimyasal kullanılarak yakılarak öldürüldüler. Şu an aileler cenazeleri teşhis edemiyorlar. Cioè, per il fatto che queste città sono sotto il coprifuoco, questi quartieri sono sotto il coprifuoco e c'è il completo divieto di entrare, io non sono potuta andare, noi come avvocati non siamo potuti arrivare sul posto, però diciamo che dal recupero di alcuni cadaveri la popolazione che è là dentro ha subito attacchi da alcune sostanze che non ha riconosciuto e fra queste ci sono armi chimiche, alcuni sono stati aggisi e bruciati vivi negli scantinati e molti cadaveri non sono stati restituiti e viene rifiutato di restituirli alle loro famiglie. Yani cenazeleri gören ve otopsilerine girmeye çalışan avukat arkadaşlarımdan biliyorum büyük bir çoğunluğunun vücudunda kol bacaklar kopuk halde yandıkları için tanınmayacak haller yani fotoğraflarla teşhis etmek ya da görerek teşhis etmek mümkün değil. Conosco degli avvocati che sono andati nei luoghi in cui si faceva l'autopsia di alcuni di questi cadaveri, in cui in particolare sulle gambe e sulle braccia c'erano dei segni di bruciature non diverse, diciamo riconducibili a attacchi di sostanze chimiche, e però ancora diciamo, non c'è un referto definitivo. Silopi'de katledilen 3 kadın arkadaş içinde ve diğer aslında diğer yaralılar içinde şu durum, şöyle bir şey yaşandı. Yaşanan bombardıman esnasında yaralandıklarında ambulansın gitmesi ya da yetkililerin yani sağlık ekiplerinin gidip müdahale edilmesi için bildirilen adresler sonucunda oralar daha korkunç bir şekilde bombalanarak infaz edildiler aslında. Per quanto riguarda le tre compagne uccise a Silopi e in altre situazioni, è successo anche che molte volte il fatto che alcuni chiamassero le ambulanze e quindi dessero l'indirizzo, identificassero i luoghi in cui si trovavano i feriti, ha fatto sì che ci fossero degli attacchi con armi pesanti e bombardamenti più forti proprio in quei luoghi. Dolayısıyla cenazeler maalesef tanınamayacak halde 3 kadın arkadaşımızda durum böyleydi. Aileler çok zor teşhis edebildiler. Per la situazione dei corpi di queste tre compagne era appunto questa, cioè successivamente a un attacco così forte i loro corpi erano irriconoscibili e le famiglie con molta difficoltà, con dei test, sono risalite al fatto che fossero loro. Ve şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Sakin arkadaşın ölüm yıl dönümünden birkaç gün önce bu üç kadın arkadaş katledildi. E voglio ricordare che queste tre donne sono state uccise pochi giorni prima dell'anniversario dell'uccisione della compagna Sakine. İkisi cezaevinde kalmıştı. Due erano state in carcere. Ve içlerinden biri Sakin arkadaşın kaldığı cezaevinde 5 yıl kalarak hatta ana dilde savunma ve sayın hocanın üzerine tecrite karşı uzun süreli açlık grevinde kalan arkadaşlarımızdan biriydi. Una di loro era stata 5 anni nel carcere di Diyarbakir, lo stesso carcere dove era stata Sakine, era stata in sciopero, uno lungo sciopero della fame contro il divieto di insegnamento della lingua curda, della lingua madre e contro l'isolamento nei confronti del presidente Öcalan. Bu anlamıyla aslında benzerlik gösteren bir hikaye var orada da. Anche in questo caso c'è una storia simile. Ya şunu çok iyi biliyorum aslında böylesi bir katliam ya da şu an Kürdistan'da yaşanan katliam dünyanın başka bir ülkesinde yaşansaydı muhtemelen bu kadar sessiz kalınmazdı diye düşünüyorum. Çünkü Paris'te yapılan IŞİD'in yaptığı saldırıda yüzlerce insan öldü. Yani Cize'de şu an sadece son bir hafta içerisinde 150 insan yaşamını yitirdi. Ama maalesef ki çok ciddi bir sessizlik var. Ve aynen IŞİD, yani Türk Devleti de aslında IŞİD'in kullandığı yöntemlerle bunu yapıyor. Io credo che nessun altro caso, un massacro di questo genere, una situazione di questo genere possa essere tenuta in un silenzio così profondo, perché faccio un esempio simile appunto come diceva prima, il massacro che c'è stato a Parigi da parte di Daesh, sono state uccise centinaia di persone e solo nell'ultima settimana 150 persone sono state massacrate a Gisre e c'è un silenzio totale su questo fatto. E, la responsabilità dell'Europa, perché non è, che ha bisogno della Turchia, forma parte dell'Europa, e quindi sta a Europa, Turchia, la ya Türkiye'nin devlet olması onun devlet terör uygulamasını haklı kılmıyor. Gli abbiamo dato appena 3 miliardi di euro. Dice il fatto che lo Stato turco sia uno Stato non gli dà il diritto di mettere in pratica il terrore di Stato. Penso che sarà anche molto doloroso in una certa misura da leggere, perché riguarda un fatto, diciamo, riguarda di prigionia, quindi chiaramente ho sentito qualche pezzetto letto l'altro giorno in una trasmissione che avete fatto, no? Quindi molto pesante. Mi è piaciuto molto anche il ragionamento che faceva Silvia su il fatto che i prigionieri politici e la loro lotta, la loro resistenza, nei modi in cui si può venire, spesso avviene attraverso questi terribili autodistruttivi scioperi della fame, però che la lotta dei prigionieri politici che costituiscono, diciamo, dei corpi più compatti, aiuta in qualche modo, è il riferimento in qualche modo per la lotta, per la resistenza del popolo. Io ho ritrovato cose molto simili, per esempio, per i palestinesi, in cui addirittura la lotta dei prigionieri politici è più forte, più compatta, che non quella di chi non è prigioniero, di chi è fuori. Quindi questa è una cosa molto interessante, devo dire, anche da un certo punto di vista un po' disperante, perché se sono i prigionieri obbligati a stare chiusi, vabbè, che lì ci stanno altre prigioni anche a cielo aperto, ma se sono i prigionieri a dover dare questo, come dire, questo esempio, rappresentare questo punto di riferimento, no, e non essere quelli di fuori che in qualche modo lottano per la libertà loro e anche dei prigionieri, è un po', insomma, da pensarci un pochino sopra, no? Però mi sembrava una notazione interessante. Comunque la, non ho scelto di parlare di quello, però c'è tutto 100 pagine quasi di questo libro in cui lei parla dell'amore e come conciliare questi rapporti personali che lei sviluppa in carcere con i compagni, perché poi a un certo momento, dopo lo sciopero della fame, in cui le persone anche sacrificano molto, certe concessioni vengono fatte. E una delle concessioni è il permesso di incontrarsi tra compagne e compagne, e questo chiaramente apre tutto un nuovo mondo in qualche modo, e in cui si sviluppano anche rapporti affettivi. Perciò in questo libro c'è tutta una parte veramente molto interessante dove lei parla come conciliare questi suoi sentimenti con quello che lei sente la sua responsabilità al partito, alle altre donne e al suo popolo, e anche emerge in queste relazioni il fatto che lei è molto avanzata nel suo pensiero di che cos'è l'amore, mentre i compagni che si innamorano di lei o l'avvicinano hanno delle idee un po' tradizionali. E questo crea per lei un grande disagio e riflessione, che è molto interessante, perché non me l'aspettavo francamente in un libro, no, che si parla molto della resistenza del popolo, della tortura, di tutte queste cose, poi c'è tutta questa cosa sull'amore. Beh, io non ho letto il primo libro, mi dice. Sì, si era prenotata la ragazza con il bambino. Allora, prima la signora. Ah, c'era prima la signora. Spero di avere abbastanza voce. Tu hai detto, no, ma noi non ne parliamo, qui non se ne parla, e quello che succede nel Kurdistan turco sembra che non esista. In realtà se ne parla, tranne che a livello politico, cioè i compagni turchi hanno fatto un'azione veramente lodevolissima e incredibile, distruttiva canali di comunicazione, per cui ci sono molte piccole realtà, non realtà politiche, sempre cercati di la grande stampa su questo. Su un soffitto, sia una realtà di Venezia, sia una realtà di Sicilia, Stato versava contro una parte della sua popolazione, perché i comuni sono tutti, fanno parte dello Stato. Nella lotta per la liberazione nazionale non sei proprio più. Un attimo di silenzio. Erdogan ha risposto a Biden quando Biden ha timidamente sollevato la repressione contro i firmatari dell'appello. Noi li consideriamo terroristi e li tratteremo come tali. E questo proprio su tutti i canali della televisione turca tutto il giorno, questa cosa che questi sono considerati. Sì, due settimane fa, tre settimane fa. Perciò voglio dire un'altra cosa che mi ha molto, nella mia ignoranza, confesso, colpito quando sono andata a Istanbul. Ogni persona che ho conosciuto e ogni avvocato che ho conosciuto a questo symposium è stato in carcere più di una volta. Perciò la questione del carcere è proprio, non lo so, è parte di, non so come dire, dell'educazione che uno ha. E anche tutti i giovani che ho incontrato nei vari quartieri che abbiamo visitato, tutti 6 mesi, un anno e mezzo, il carcere è un'esperienza molto più diffusa e presente nella vita della popolazione, e la questione della repressione, quello che sta accadendo in Kurdistan, ne abbiamo parlato, ma si sta estendendo anche al resto della Turchia, e quando la gente alza la testa per protestare, per magari anche esprimere solidarietà con il popolo curdo, la repressione è pesante, feroce. Chiaramente, non tutti sono d'accordo, ma c'è una parte della società. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa iniziativa, insomma, mi dà, diciamo, da questa iniziativa non è che esco con la frustrazione, ma con più rabbia, coraggio, insomma. Io mi permetto di parlare del contesto qui perché stiamo parlando di una lotta, una liberazione di tutte e tutti quanti, quindi mi permetto di fare un intervento che riguarda il contesto italiano. Oggi, grazie a un libro, stiamo parlando di lotte, di torture e di carcere. In Italia il sistema carcerario abbiamo un regime, quello del 41 bis, che dobbiamo impegnarci a considerare un regime di tortura. Oltre a tutte le restrizioni che seguono le persone imprigionate in questo regime, ultimamente il DAP ha introdotto il divieto di ricevere riviste e libri alle persone che seguono queste condizioni di isolamento. Non poter leggere in carcere significa ovviamente non poter studiare, non poter crescere la propria identità politica, la propria cultura, ma neanche poter evadere con la testa da quella condizione di isolamento. Ora è nata una campagna, si chiama Pagine contro la tortura, che sta cercando di inondare le carceri al regime 41 bis di libri che non vengono raggiunti dalle persone imprigionate. Ad aprile si aprirà una mobilitazione più forte, si arriverà davanti le carceri, tutte queste carceri contemporanee, a fare dei presidi, a cercare di comunicare con le persone imprigionate, e si organizzeranno momenti di lotta davanti al DAP e davanti all'ufficio del magistrato di sorveglianza qui a Roma. Quindi vi chiedo di tenere gli occhi aperti, insomma, colpire la punta dell'iceberg, un sistema schiacciante e dominante significa liberarci anche a noi, anche se non siamo ristretti in quelle condizioni. C'è qualche altro intervento? Vedevo una mano alzata. Io vorrei dire solo una cosa rapidissima che non sento mai nominare, ma che mi sembra importante: la responsabilità del governo D'Alema nell'arresto di Öcalan. Mettendo in condizione i servizi turchi di arrestarlo in Kenya. con oltre al danno la beffa il fatto che un paio di anni dopo poi è stato concesso l'asilo politico, quando ormai era liberato in quel momento, se non ricordo male, con una condanna alla pena di morte che poi è stata convertita in ergastolo. Quindi insomma nominiamo di queste cose, lo dico perché vedo oggi tanti partitini, partitelli e partitoni di lotta e di governo che all'epoca hanno consegnato Jalan nelle mani della Turchia, che oggi fanno le iniziative in appoggio al Kurdistan senza fare un minimo di autocritica, di presa di responsabilità su quello che hanno fatto allora. Ora, se c'è una cosa importante che i compagni e le compagne kurde ci insegnano è proprio fare critica e autocritica. Questo sarebbe basilare da parte di tutti questi personaggi che ospitano anche grandi iniziative sul Kurdistan e grandi presentazioni di libri, di interventi, eccetera, invece di andare a vedere che responsabilità hanno avuto quei partiti e chiamarli alle loro responsabilità. Tutti, dal primo all'ultimo, dal partito più grande al partitello più infimo, che però comunque è stato complice di questo. Chiedevamo poi alle persone, ma voi compagni naturalmente, persone impegnate, ma voi che cosa ne pensate di noi italiani, della vicenda di D'Alema? E loro non hanno mai mostrato, no, alcun risentimento, anzi dicendo che come popolazione, come popolo siamo sempre stati molto aperti. Comunque quello che hai detto è stato grandissimo. No, dico anche dal punto di vista politico, quando si faceva il nome di D'Alema non trovavamo, no, dall'altra parte un feedback. Fino alle elezioni di giugno dell'anno scorso ci fosse uno sviluppo positivo all'interno della Turchia. La speranza e l'impressione che avevamo da qua è che ci fosse almeno una piccola parte della società turca che, memore delle proteste di Spark, un minimo di risveglio culturale in Turchia, avesse capito e anche abbracciato la proposta dell'HDP. Dal giugno dell'anno scorso alle nuove elezioni invece che ci sono state quest'anno, l'impressione e il sentimento che abbiamo avuto qua dall'Europa è stato invece di un grosso passo indietro da questo punto di vista. Io volevo capire, volevo sapere la tua impressione. Da un lato, se continua a esserci, seppur sepolto sotto le ceneri, non so se ti metto in difficoltà per la traduzione, un minimo di comprensione, di sentimento, di mal di pancia anche da parte di quella parte della sinistra turca per ciò che sta accadendo nel sud-est del paese. Se all'ovest i giovani turchi si rendono conto, seppur tra le mille difficoltà della censura, di quello che sta accadendo a Cisre, a Silvan, a Sur e nelle altre città e se vi è una forma di solidarietà, di cooperazione, di questo patto di resistenza che prima si faceva riferimento all'interno delle carceri tra i perseguitati politici, i prigionieri politici turchi, che ovviamente sono molti meno di quelli curdi, ma comunque anche turchi, compagni solidali sono stati arrestati, rispetto invece agli arrestati curdi. Cioè, se vi è una forma di sostegno reciproco e di solidarietà da questo punto di vista. Hani sondan başlayarak başladığı siyasi tutsaklar her zaman için dayanışma halindelerdir. Yalnız Kürt hareketinin şöylesi bir geleneği var. Hani dışarıda aktif direniş, hani cezaevinde sürekli direniş halindesindir. Ve dışarıda daha aktif bir direniş söz konusuyken yani daha fazlasını içeriden beklemek biraz haksızlık olur. Biz zaten dışarıda Kürt halkı direniş şeyse öyle bir şey çok söz konusu değil ama zaten içeridekiler 24 saat direniş halindeler. Cioè, sia i prigionieri turchi che i prigionieri curdi sono sempre stati in solidarietà per quanto riguarda la resistenza, per quanto riguarda i prigionieri curdi, nel momento in cui fuori c'è una resistenza, una lotta, non ci si aspetta in questo momento, ormai a questo punto, non si aspetta qualcosa dalle carceri, anche se loro 24 ore su 24 in qualche modo resistono attraverso sciopiri della fame, da oltranza o meno, però comunque adesso è la resistenza fuori che sta cercando di avere un peso maggiore, però comunque i prigionieri politici sono, si uniscono in questa resistenza e sono sempre in questo stato. Diciamo, parto dall'ultima cosa per tornare. Onun dışında da şunu söyleyeyim, aslında HDP içerisindeki Türkiye, ya HDP aslında bir demokratik platform gibi düşünün. Yani demokratik direniş cephesi gibi ele almak gerekiyor. Türkiye'deki birçok demokratik sol çevre bu proje içerisinde, bu parti içerisinde kendisini ifade ediyor. Cioè, l'HDP è una piattaforma democratica, è un gruppo di resistenza democratica all'interno della Turchia e molti movimenti, molte realtà di sinistra e democratiche prendono, diciamo, si riconoscono, riescono a rappresentarsi e si rappresentano all'interno dell'HDP. Dolayısıyla bu direniş ve dayanışma hali hala devam ediyor. E quindi questo stato di resistenza e di solidarietà, di lotta comune continua. Ama burada şu var, aslında savaşma kararı veren ve chi ha deciso per la guerra e chi ha deciso per il massacro è lo Stato. Bir 7 Haziran seçimleri öncesinde Diyarbakır'daki mitingdeki 5 Haziran mitingindeki patlama. Lo scoppio della bomba che c'è stata a Diyarbakir il 5 giugno, prima delle elezioni, 7 giugno, è uno dei primi eventi relativi a questa decisione. Ve hemen onun sonrasında 22 Temmuz'da Suruç'taki sosyalist gençler içerisindeki patlama. Poi lo scoppio, il massacro dei giovani turchi che erano andati a Suruç è stato il secondo. Aslında o zamandan başlayan bir geri sayım vardı. Yani hani 1 Kasım seçimlerinden sonra bir kötü gidiş yoktu. 1 Kasım seçimlerinden sonra sadece daha görünür oldu ve daha AKP seçimdeki pozisyonu... Diciamo che immediatamente dopo le elezioni del 7 giugno è stata presa questa decisione totale di guerra e di attacco. Quello che è cambiato dopo le elezioni del 1 novembre è che avendo guadagnato, diciamo, una sicurezza maggiore, lo Stato ha iniziato a muoversi in maniera molto più disturbata e più visibile, senza nessun tipo di remora, ma comunque è stato tutto un processo che sin da prima delle elezioni, ma durante tutto questo periodo finora, è continuato. Ve çok önemli bir nokta daha var ki, Rojava'daki gelişmelerdi. E un altro punto molto importante sono gli sviluppi in Rojava. Rojava'da YPG ve YPJ'nin ilerleyişi ve IŞİD'i durdurması Türkiye açısından YPG in Rojava riuscissero ad avanzare, a sconfiggere Daesh e a conquistare sempre più posizione è stato un motivo per un intensificarsi dell'attacco da parte della Turchia. Ve dolayısıyla öncesinden başlayan aslında barış süreci bu gelişmelerle lo Stato turco ha rovesciato il tavolo dei negoziati del processo di pace che andava avanti. Aradaki fark şu, sadece 1 Kasım seçimleri öncesi kontrollü olan saldırı kontrolsüz bir hale başladı. Quello che è successo è che fino al 1 novembre c'erano degli attacchi, però che possiamo chiamare in un certo modo controllati, e adesso è completamente fuori controllo. Yani Eylül ayında da siviller Cizre'de katlediliyordu. A settembre venivano uccisi i civili a Cizre. Bunlardan bir tanesi 35 günlük bir bebekti. E uno di loro era un bambino, un neonato di 35 giorni. Ve Erdoğan onun için dahi terörist dedi. E Erdoğan ha dichiarato anche questo bambino un terrorista. Yine Ankara'daki patlama, orada birçok sol sosyalist insan katledildi. Nel l'attentato di Ankara sono stati uccisi molti socialisti e rivoluzionari di sinistra, turchi anche. Ama tüm bu yaşananlara rağmen hala Türkiye'de Kürtler ve onların dostları, demokratik ve sol çevreler hala direniş halindeler. Ma in questa situazione, nonostante questa situazione, i curdi e i loro amici e i democratici, i rivoluzionari, i socialisti in Turchia sono in una situazione di resistenza. Sadece dediğim gibi daha önce görünürdü ve Türkiye özellikle medyada çok ciddi bir sansür var. Şöyle düşünün, işte HDP seçim çalışması yürütürken ya da bu savaş devlet bu kadar saldırırken bunlar hiçbiri Türkiye'de büyük televizyon kanallarında ya da gazetelerinde yazılmıyor, çizilmiyor ve konuşulmuyor. Şimdi daha evet. Rispetto a prima delle elezioni del 1 novembre, diciamo che anche la censura è aumentata, ma anche durante la campagna elettorale dell'HDP comunque non veniva permessa assolutamente, non veniva per niente diffusa attraverso i media, però adesso è proprio, diciamo, controllata completamente tutta l'informazione dallo Stato. Yani hani savaşın ya da katliamın yarattığı bir kaygı kuşkusuzlardır. Bu olmaması insanın doğasına aykırı bir şey. Ama buna karşı da direnen ve sokakta direniş ve mücadele halinde devam ediyor. Senza dubbio questa guerra, questo attacco così feroce ha creato delle difficoltà e una situazione difficile, molto difficile, però nonostante questo la resistenza va avanti. Grazie. Grazie. E ci sono altre domande? Possiamo chiudere qui. Allora, prima di lasciarvi andare, scusate, allora vi volevo ricordare che dietro questa porta, nella sala adiacente, è possibile comprare il libro di cui abbiamo appena parlato. Grazie a tutti. Io volevo ricordare che domani alle 16 al Colosseo c'è la manifestazione per chiedere libertà per la promozione.